Sono convocato anch'io, io vengo in ritiro per forza. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Abbiamo degli obiettivi molto precisi. Vorremmo fare una squadra che duri nel tempo, soprattutto una squadra che possa ritornare con stile, con classe, con cuore sulle scene nazionali e internazionali per ridare al Milan la sua tradizione e per dare ai tifosi rossoneri quello che il cuore dei tifosi rossoneri ha dato. Seconda consecutiva, quarta della sua storia. Varco per Kakà e noi speriamo sempre, va Kakà, musica e magia, viene avanti ancora, viene avanti musica e magia, ancora potrebbe tirare, si ferma ancora lui, pallone dietro per Pippo, la storia, alta tensione Inzaghi, la storia, Pippo mio, la storia! Tiro ed è rete! Rete! Rete! Il Milan è campione d'Europa! Il Milan è campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia! L'abbiamo fatta. Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan. Ma ragazzi, piano con le lacrime, dai, non piangete amici milanisti, dai su, la vita continua. Giorgio De Luca, nostro autore, Daniele Bonamici in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ma perché la questione oggi non è certo Inzaghi o Brocchi, Inzaghi surgelato a fatto allenamento stamattina, si sta aspettando, ma non, questo non conta quasi niente, secondo me. La questione è be or not to be. La settimana di campionato non ha lasciato alcun segno tangibile se non la scontata retrocessione del meraviglioso Parma di questi tempi. Ci alziamo in piedi e ci leviamo il cappello, però scivola sullo sfondo. I personaggi di oggi sono Berlusconi, Mr. B, incontro previsto nel pomeriggio, c'è una conferenza stampa prevista alle 17 in un albergo milanese, e Marco Bellinazzo, del Sole 24 Ore, che saluto insieme a Pierluigi Pardo. Ciao Pier. È il giorno delle B, Berlusconi, B, Bellinazzo. Bellinazzo, ma tu, Bardo? Senta. Ciao Marco. Ciao ragazzi. Allora? le fonti come la mettiamo? Sei, fonti... sei il personaggio più monitorato d'Italia insieme a Berlusconi e Mr. B. Molto le più di Inzaghi. Le fonti tacciono. Stamattina un grande silenzio mi ha accompagnato, diciamo, in queste ore di veglia. Mm-hmm. Attendevo un messaggino chiarificatore da Arcore in nottata, ma non è arrivato. Il che mi ha preoccupato un po', sì. Però diciamo che poi qualche rassicurazione, insomma, mi è arrivata pochi istanti fa, insomma, sulla, sull'andamento della trattativa, nel senso che Berlusconi ha voluto prendersi una notte ulteriore di riflessione. Sì. E Mr. B gliela, gliela concessa. Chiaramente mi sembrerebbe strano, diciamo, un nuovo incontro per dirsi addio. Addio, sì. È meglio dirselo al telefono anche tra gli innamorati. Ah, quindi oppure il Milan, il Milan è andato? No, questo non posso dirlo perché se non mi rovino la carriera già sono a rischio e non vedo l'ora che questa storia finisca, perché sì, no, no, no, dubbi, sono esposto fin troppo da... Mr. B ha lasciato l'albergo in centro a Milano, molto probabilmente per dirigersi ad Arcore ultima ora 14:14 da, da Sky. Pierluigi, ecco. Tu, noi, noi la carriera non abbiamo niente da giocare. Dacci una parola di conforto, Pier. Dacci una parola. Il Milan, il Milan secondo, cioè il Milan, ha cambiato proprietario. Beh, sia questo, non lo so, adesso se non lo dice Bagnazzo perché dovrei dirlo io, ma io sinceramente no, mi sembra che insomma sia, siamo in titolo di coda, ma insomma con un'offerta che mi sembra assolutamente irrinunciabile, in linea, no? Ecco, sì, irrinunciabile. È una situazione nella quale certamente Berlusconi ha tenuto grandissimi, grandissimi traguardi col Milan e quindi anche un enorme ritorno dal punto di vista mediatico, dal punto di vista dell'immagine in questi anni. È chiaro che può chiudere, può lasciare, credo, in buone mani questa società. Può... Sì, che questo mi sembrava fosse il punto, sai, Piero. Ecco, appunto, appunto. Mi sembrava che questo fosse il punto, perché... sai, già l'offerta è un'offerta clamorosa, Sì, no, sì, no, sì, ma io offerta... credo anche che per uno come Silvio Berlusconi, adesso dopo il traffico parliamo anche di quote, di dettagli, se possibile, con Marco, però... Mi sembra che Berlusconi sia stato molto attento a questo, cioè sia una parte del suo, al di là dei soldi, una parte del suo interesse, cioè quello di capire che il Milan avrà un grande futuro. Credo che questa sia stata un elemento preponderante in una ancora eventuale scelta. Traffico. Chiara difficoltà da parte del Barcellona, Donadoni in penetrazione, fuori il Mascaro, gol! Tutti convocati. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Tutti convocati. E naturalmente questi 25 anni di vittorie, forse se qualcuno di noi non ci fosse stato, sarebbero stati ugualmente possibili. Non sarebbero mai stati possibili se non ci fosse stato lui con il suo grande cuore, Adriano Galliani. Adesso faccio una domanda difficile a Marco Berinazzo. Posso, Marco? Provaci, io proverò a rispondere. Allora, l'altro ieri mi hai dato una percentuale del 75%. Adesso quanto la daresti? No, confermo, c'è qualcosina in più anche, ti ripeto, per questo ulteriore incontro che mi sembra destinato a limare i dettagli che talvolta possono essere anche decisivi per cambiare il destino di trattative avviate benissimo, come ben sappiamo, come accade nel mondo degli affari. Sì. Però effettivamente se ci fosse stato un rifiuto, o se Berlusconi avesse avuto, come dire, in mano un'offerta decisamente più vantaggiosa, credo che Mister V sarebbe già a Bangkok a questo punto, insomma, e non stesse tornando ad Arcore. La presenza di Barbara è stata importante ieri, perché ricordiamo che il Milan si è servito a Berlusconi anche per sistemare un po' di cose in famiglia, per dare un ruolo a Barbara che fosse lontano, diciamo, dal mondo Mediaset, Mondadori, che invece erano appunto appannaggio di Marina e Pier Silvio, e quindi probabilmente un ruolo a Barbara sarà trovato nel nuovo assetto, più difficile che sia concesso un ruolo ad Adriano Galliani, proprio per la statura del personaggio, insomma. Quindi immagini che se dovesse venire il passaggio di consegne sarebbe l'addio per Berlusconi, ma anche per Galliani, mentre Barbara rimarrebbe come filo conduttore, no? Anche sì, perché anche si parla sempre di quel 51% che non è cambiato, certo, in termini di questione, certo, no? Certo, certo. Quindi comunque ci siamo... come ci siamo detti, insomma, una presenza berlusconiana nel Milan ci sarà. Vuoi poi per valorizzare questo pacchetto azionario nell'eventuale quotazione, no? A Singapore, sì, Hong Kong, sì, o dove sì avverrà, e quindi per rientrare di ulteriori introiti. Vuoi anche per dare continuità, diciamo, a una storia familiare, e Barbara Berlusconi, diciamo, nell'ambito del marketing, ma soprattutto nell'ambito, diciamo, infrastrutturale, con il progetto del Portello che sta portando avanti, può essere una risorsa, certo, manageriale per la nuova società, e mi risulta, insomma, che anche lei sia andata via abbastanza contenta, insomma, dall'incontro, sì, di ieri sera, insomma, dove magari, insomma, dopo il quale Galliani era un po' più nero del solito, insomma, non è non solo per la sconfitta, certo, del Milan, ma a caso questo... Galliani, sì, era allo stadio e Barbara. A questo proposito volevo Pierluigi, no, adesso lo richiamiamo Pierluigi Pardo. Non a caso dicevi Galliani era allo stadio, Barbara non c'era. Si parla in queste ore dell'esonero di Inzaghi, però trovo che sia un ulteriore segnale il fatto che si sia preso tempo, il fatto che Inzaghi sia stato congelato, ma d'altra parte quale senso avrebbe in questo momento? A 5 giornate alla fine, con tutto perduto, cambiare l'allenatore. Tieni conto che nel bilancio del Milan 2014 già sono stati accantonati 7,5 milioni per Seedorf, insomma, che rimangono. Sì, sì, no, no, chiaro, insomma, chiaro, chiaro. Poi non cioè un traghettatore avrebbe un senso per andare da qualche parte con una proprietà che rimane. In questo momento non ha alcun senso un traghettatore verso il nulla, quindi è anche giusto, insomma, secondo me, Carlo, arrivare alla fine a motore spento, certo, in questo modo. E devo dirti, Carlo, che ma a differenza per esempio di quanto è avvenuto per l'Inter, il fatto che Mr. B, Mr. Touchball, abbia insistito insieme alla sua cordata per chiudere quanto prima, è anche legato al fatto che si vuole, diciamo, definire, prendere il tempo, la, certamente, questione azionaria, diciamo, per poi avere il tempo in estate di mettere perlomeno le basi sportive del futuro del Milan, con una campagna acquisti, insomma, che permetta di fare da subito bene, insomma, perché tutto il progetto poi si regge ovviamente sul ritorno del Milan in Europa, sulla possibilità di far risplendere il brand e quindi di ottenere, in caso di quotazione, un ritorno importante. Ecco, questo volevo chiedere a Pierluigi, che intanto è tornato. Sì, scusami. Sì. Il conservare Inzaghi è un senso in questa direzione? Onestamente, Pier, che senso avrebbe in questo momento licenziare Inzaghi per 5 partite con un traghettatore per andare verso il nulla, perché è di questo che si sta parlando. No, guarda, non ha senso licenziare Inzaghi, ma non ha senso neanche tenerlo. Cioè, io sinceramente questa cosa qui, che siccome l'annata è finita, sì, allora non si deve far niente, io non sono d'accordo. Cioè, è chiaro che per Brocchi semmai potrebbe essere un rischio, no? Perché comunque queste cinque partite, se ma se per vai tu, bene, ma per chiunque potrebbe essere un rischio. Sì, detto questo voglio dire, il Milan l'abbiamo visto, Inzaghi è stato sull'orlo dell'esonero già altre volte. Cioè, io credo che ci sia anche un fatto di dignità nel chiudere la stagione in una maniera, in un certo tipo di maniera. Sì, ma non trovi che l'annuncio di un cambio di proprietà potrebbe comunque cambiare anche l'atteggiamento dei giocatori? Adesso si tratta di salvare la faccia, non la classifica, che non ha niente da dire. Quindi io credo che anche l'annuncio di un cambio di proprietà potrebbe cambiare l'atteggiamento dei giocatori, che sono loro più di Inzaghi ad aver perso la faccia in questo momento, no? Sì, ma sicuramente, questo è fuori discussione. Allora, innanzitutto c'è da dire che questi giocatori non dobbiamo neanche sopravvalutarli, nel senso che poi alla fine questa non è chiaramente un Milan vincente. Detto questo, io penso che sia nettamente sotto a livello della qualità degli uomini. Cioè, la classifica in questo momento è una classifica sicuramente deficitaria rispetto a quella che era la qualità di questa squadra. E quindi questo, insomma, è quanto. Io penso che ci siano delle responsabilità da parte di Inzaghi, lo dico sinceramente, che ha tutto il diritto, ovviamente tutto il tempo, per potersi costruire una carriera, ma in questo momento non è ancora pronto. Cioè, secondo te in questo momento sarebbe meglio sostituirlo per entrambe le parti? Secondo me non è un caso sostituirlo. Cioè, questa cosa, perché va, tutta questa negatività su un cambio in panchina, francamente mi sembra proprio... Non la capisco, nel senso, sì, sicuramente 5 giornate di Brocchi da qui fino alla fine non cambieranno le cose, non le cambieranno, però almeno ci provi, almeno provi a dare una scintilla. Cioè, non è che non stiamo facendo, non sono le amichevoli post campionato, sì, ma non è che in questo momento, scusami, ma non è che in questo momento c'è uno che deve decidere. Ma chi è questo che deve decidere? Cioè, oggi viene venduto Inzaghi a diretto l'allenamento stamattina. Sì, la squadra l'hai vista ieri, dai. No, ma chiaro, no, ma improponibile, improponibile, improponibile, improponibile. Quindi siamo alla d'accordo. Fine Brocchi sta facendo molto bene con la primavera, ma perché no? Te lo dico sinceramente, perché no? Nel senso che, ripeto, non è la bacchetta magica, non è una cosa che cambia la sostanza, però insomma, se Milan riesce a fare queste 5 partite con dignità, sarà meglio che se non riesce a farle con dignità, sì, no? E quindi ci può stare un tentativo di questo tipo. Poi è chiaro che Brocchi, con ogni probabilità, sarà veramente meno che un traghettatore, perché farà, se verrà scelto, farà queste 5 partite e basta. Sì, certo, questo è chiaro, e poi si tratterà di capire a chi spetterà il compito di scegliere un nuovo allenatore. E l'ultima cosa che chiedo a Marco Bellinazzo, perché si tratta a questo punto di definire, al di là di Barbara Berlusconi, un organigramma, no? Certo, e soprattutto l'altro giorno ci siamo lasciati dicendo non si sa bene ancora chi sia, e non credo possa essere Mr. B il proprietario del Milan. Questo è un punto non banale. No, questo è un aspetto fondamentale. Io credo che comunque la parte principale poi riguarderà gli investitori cinesi, perché l'istituto finanziario che appartiene poi alla Repubblica Popolare Cinese metterà la parte principale dei soldi, ed è ovviamente anche il soggetto politico, ma in senso lato, di peso, di questa storia. Sì. Il tutto dovrà essere tramutato in cifre, in percentuali, che credo poi saranno spiegate se ci sarà la fumata bianca, insomma, nella conferenza di questo pomeriggio. Ormai si tratta di ore, e aspettiamo, insomma, l'esito, ripeto, di una trattativa che sembra andare in una certa direzione in maniera molto chiara, per tutta una serie di servizi e di informazioni. Sì. Io, al di là di se noi facciamo un lavoro, raccogliamo fonti ed elementi, insomma, quindi possiamo dire con onestà quello che ci sentiamo di dire per le informazioni che abbiamo raccolto. Certo, certo. Quindi io, sai, dall'inizio ho sposato questa linea, questa soluzione, sì. Avevo delle mie fonti, le ho seguite, insomma, poi magari mi sbaglierò, farò una figuraccia, ma insomma in assoluta buona fede, a tutt'oggi, a tuttora, ho informazioni tali che mi fanno presumere, insomma, che l'affare vada in porto, magari cambieranno qualcosa, insomma, sì, magari potrà, esatto, potrà cambiare qualcosa. Si sta andando in quella direzione e sarei assolutamente, diciamo, sorpreso da un eventuale dietrofront di Berlusconi, a meno che il giorno dopo, qualche giorno dopo, non arrivi qualcuno che possa mettere sul piatto 1,5 miliardi, ma insomma, al momento all'orizzonte non se ne vedono e non se ne sono visti, insomma, in questi, certo, in questi mesi. Keep in touch, teniamoci in contatto naturalmente con Marco Bellinazzo. Speriamo finisca presto, ecco, speriamo, ma sì, ma lo speriamo tutti, ma tu credo più di altri, perché per noi è una notizia, una storia bella da seguire, ma mi rendo conto che è un lavoraccio. Piero, andiamo dopo la borsa con Antonio da Padova e anche con Milan Channel, l'organo ufficiale, che dice Inzaghi confermato, quindi non abbiamo grandi ragioni per credere, per pensarla diversamente. Ne parliamo subito dopo il traffico. 800 la borsa 800 24 00 24. Serginho, buco interno, Serginho, 6-0. Non ho mai visto una cosa del genere in un derby. 6-0, non ho mai visto una cosa del genere in un derby. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. No, assolutamente, perché a me piace combattere, piace lottare. Mi è troppo facile andare a casa ora bisogna metterci la faccia e cercare. Io ho sempre lavorato con grande dignità e a testa alta, questo non me lo potrà mai rimproverare nessuno, per cui insomma non è da me. Io non mollo mai, perché la mia carriera è stata fatta così anche da giocatore, insomma io posso andare in giro a testa alta perché ho sempre dato tutto me stesso. Probabilmente non è bastato e io, insomma, adesso la società rifletterà e prenderà la decisione migliore per il Milan. Il Milan nel mio cuore resterà per sempre nel mio cuore, qualunque decisione ci sia, qualunque cosa succeda, insomma vedremo, insomma, le riflessioni che farà la società e poi insomma domani sapremo. Milioni di tifosi rossoneri in lacrime, per oggi è il giorno dei grandi sentimenti. E Luigi? Oggi è il giorno chiaramente anche no, voglio dire della memoria, mi sembra una parola un po' grossa, però insomma sì, dei ricordi, dai, un dei ricordi, ma insomma voglio dire, no, ci si evolve, la vita è fatta di fasi, ma adesso non voglio dire altre banalità, ma è così, insomma, ma sì. Se questo compratore riuscirà in questo momento ad assicurare più risorse, sarà un'opportunità in più. No, però tanto hai sentito che secondo le fonti ufficiali, cioè fonti ufficiali, il Milan c'era di fatto una fonte ufficiale, Inzaghi rimarrà. Io trovo che questo sia un punto, una pennellata nel quadro che verrà dipinto oggi a 17 in questa conferenza stampa attesa. Poi qualcuno domanda: ma perché Brocchi non Tassotti legittimamente l'eterno secondo, eccetera. Antonio Padova, buongiorno, grazie per l'attesa. Sì, buongiorno. Dica. A tutti. Due cose veloci. Una, spero che al più presto sti vincoli oscuri che bloccano le milanesi, perché a tutto posso credere tranne che siano diventati scarsi a livello societario per fare queste fine. E dopo una richiesta veloce: se mi fate sentire l'esultanza milanista alla fine del primo tempo della finale di Istanbul, che è proprio l'apice della goduria milanista, vi prego fatemi sentire. Ce la trovo. Non è che abbiamo tutto nel cassetto, bisogna fare un minimo di ricerca. L'inverno delle milanesi finirà. Guarda, l'inverno delle milanesi finirà. Tutto è stato lunghissimo. È chiaro che Inter e Milan è in qualche modo la conclusione, se va confermata. Non possono essere così, non possono essere così. No, non possono essere così, hanno una forza appunto di brand, di bacino d'utenza enorme, e quindi è chiaro che nei corsi e ricorsi della storia torneranno a essere protagoniste. In fondo è successo anche alla Juventus, no? Che adesso i posti consecutivi. E da un certo punto di vista, e l'abbiamo visto, l'abbiamo commentato con Beninazzo, a livello di immagine internazionale, il Milan è anche superiore, proprio perché ha vinto tanto in Europa, mentre la Juve ha vinto di più a livello domestico, a livello nazionale. Quindi non a caso il prezzo del Milan è un prezzo che sembra addirittura esagerato, no? Sì, qui sì, semplicemente sì, se guardiamo sì, i risultati sì, sportivi, ma è la forza di quello che il Milan ha costruito in questi anni, è proprio è quella parola di cinque lettere che si chiama brand, che sembra una roba veramente per gente che lavora in Procter & Gamble o in Colgate, ma che è esattamente quello, cioè il Milan rappresenta un certo tipo di società, un certo tipo di club, un certo tipo di forza, e quindi è chiaro, è evidente che questo poi alla fine viene monetizzato, sì, viene monetizzato, e secondo me è anche una garanzia del fatto che tornerà su livelli importanti. Beh, sì, anche perché nessuno spende quei soldi per poi accontentarsi di costruire una squadra da settimo posto o per vivacchiare, perché onestamente sono troppi. Sentiamo il volo Andrea Dabiel e poi vorrei chiarire alcuni aspetti che non mi sono del tutto noti. Cioè, si tratta di fare un mercato. Galliani va via, Inzaghi congelato, si dice che è stato contattato Spalletti, ma chi farà il mercato del Milan non si sa, e nemmeno con quali soldi e con quali direzioni. Andrea Biella, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per la convoca. Dica. Io ho questa idea, cioè secondo me la scelta di Inzaghi, che non reputo responsabile totalitario di questa crisi, è stata una scelta a tavolino, nel senso lui aveva un credito nei confronti della curva del tifoso rossonero, per cui gli venivano perdonate, gli certo, vengono perdonate certe cose. La mia domanda è: ma com'è che gente, però ecco, a discapito di Inzaghi c'è forse il fatto che è uno yes man, un uomo della società, come mai gente come Leonardo, come Seedorf, come Maldini, come Albertini, che non me li vedo tanto nella parte di quelli che subiscono le decisioni, ma che piuttosto hanno una personalità tale per cui intervengono, non ci sono all'interno di questo gruppo. Grazie tanto. Per ragioni diverse, per ragioni legate al passato, ai rapporti personali, eccetera, credo che non ci sia altro. Però saluto Luca Marchetti da Sky, ciao Luca. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao, tanto per cominciare, Inzaghi resta, confermato da fonti praticamente ufficiali, ti risulta? Sì, mi risulta la stessa cosa che risulta a voi, ho confermato Milan Channel, quindi possiamo crederci. Ma penso di sì, insomma, non mi pare che in una situazione del genere il canale tematico del Milan vada a rischiare. Certo, dica una sciocchezza. Ti risulta anche che cioè, ritieni anche che questo possa essere il corollario a quanto sta succedendo ad Arcore, che verrà meglio spiegato alle 17? Sì, nel senso che in questo momento serviva comunque l'ok di Berlusconi per fare un avvicendamento. Berlusconi credo che abbia altri pensieri piuttosto che l'allenatore, cioè rimane una settimana più, una settimana in meno, 5 in meno, non cambia assolutamente niente. Hai qualche idea, Pierluigi? Hai qualche idea, lo chiedo anche a te, su chi possa essere l'uomo mercato del Milan nel futuro? No, non ho nessuna idea. Io ti dico un ticket. Vai. Galliani Maldini. Ma Galliani dovrebbe andare via, dicono, no? Non è detto. Non è detto, dipende quello che si sono detti in queste ultime 24 ore B e Silvio, visto che li chiamiamo per Maldini, nome. Maldini, sulla possibilità di recuperare Maldini, a parte che Galliani Maldini, scusami, sarebbe un ticket, sì, sì, poi nella storia tutto può cambiare, ma sarebbe un ticket veramente abbastanza improbabile. Infatti ho premesso, potremmo, se regge il ticket. No, potremmo anche pensare a un governo bicolore Salvini-Renzi, non lo so, o a cosa di questo tipo. Però, scherzando ovviamente. Credo che tu mai ti saresti mai immaginato che potevano governare insieme Forza Italia e PD, quindi nella vita abbiamo visto di tutto. Mi sembra comunque più facile, no, ma per carità, Maldini, sul fatto che Maldini possa essere una figura anche dal punto di vista simbolico, immagine straordinaria, da recuperare, su questo non ci sono dubbi, mi sembra abbastanza scontato. Sul fatto che abbia un ruolo operativo e che lo possa avere assieme ad Adriano Galliani, questo è un pochino più complesso, però sicuramente sono due persone intelligenti, troverebbero eventualmente il modo di lavorare insieme. La verità secondo me è che al momento, insomma, siamo non proprio c'è, nel campo delle supposizioni, che più supposizioni non si può. Quello che sta diventando abbastanza certo è appunto questa operazione, che è un'operazione che, insomma, per il modo e per le cifre che vengono messe sul piatto, insomma, mi sembra foriera di possibili grandi investimenti, nel senso, non credo che uno investa tutti quei soldi, 100 milioni per il 51% e poi lasci marcire la squadra, quindi mi sembra, insomma, una garanzia, questo, ecco, assolutamente. questa, insomma, bisogna anche capire chi c'è dietro, perché se si conferma quello che sappiamo e quello che abbiamo detto, cioè il fondo Doyen, la personalità e la persona di Galliani mantengono un buon appeal nei confronti di queste persone, se invece gli investitori possono essere altri, chiaramente dipende anche da chi ci mette i soldi, perché io credo che chi ci mette i soldi veramente, al di là di Touchball che è un po' il collettore di questi finanziatori, immagino che voglia decidere poi, no? Perché sì, se ci metto, non so, 100 milioni, 200 milioni, magari il direttore sportivo lo scelgo io, o te lo porto io. Sì, sì, questo è chiaro. Ma è credibile, Luca, che in questo momento qualcuno abbia contattato per dire come ho letto Spalletti? Secondo me no, però è possibile tutto. Credo che poi Spalletti e il Milan abbiano una storia di mandi e rimandi molto intensa. In realtà la verità è che Spalletti in questo momento, fra gli allenatori di un certo livello, è quello più facilmente contattabile, perché non deve liberarsi da nulla. È sul mercato, domani mattina se vuole va a Milanello, ma anche da adesso. Ecco, sì, no, il problema è che è contattato da adesso per per il futuro, può essere un'idea. Però credo che nessuno si arrischi a fare questo passo adesso. Sì, anche perché non vedo chi in queste ore possa avere tale facoltà. Quindi magari potremmo chiamare Spalletti per sapere chi l'ha chiamata. Sì, questo sarebbe interessante. Il direttore sportivo del Milan. Questo sarebbe interessante. Senti, ti chiedo un'ultima cosa che non riguarda il Milan, poi non so se per Luigi o qualcos'altro, ma mi incuriosisce molto la storia di l'offerta di De Laurentiis a Benitez. Sai che io ho l'impressione che si stia assistendo a una sorta di commedia. Nel senso che De Laurentiis è molto bravo a mediaticizzare i passaggi che fa con gli allenatori. Lo aveva fatto anche con Mazzarri, sì, che a un certo punto sembrava che addirittura firmasse il rinnovo di contratto. Forse memori, perché l'anno prima, no, ti ricordi, c'era l'anno prima, cioè il secondo anno di Mazzarri al Napoli, c'era stata comunque una frizione che era stata sanata. Quindi noi contestualmente diamo ampio credito a quello che dice De Laurentiis, giustamente il presidente, quindi decide lui. Io non vorrei che invece, a fronte di tanto zucchero, ci sia un out e dirgli, insomma, sabato dentro o fuori, io ti ho promesso tutto quello che potevo darti, avrei veramente piacere che tu rimanga, però prima o poi me lo devi dire. Non possiamo continuare a decidere, a rimanere sul ciglio del burrone. Certo. Io comunque il prossimo anno l'allenatore lo devo scegliere, quindi mi fa piacere che sia tu, risolvi i tuoi problemi familiari, visto che mi hai detto che sono problemi familiari, poi però dimmi sì o no entro sabato. Furbizia del tutto napoletana. Secondo me, sì. Piero, hai qualche altra curiosità da parte del professor Marchetti? No, vorrei sapere qualcosa del mercato della Ternana, se abbiamo qualche notizia, qualche indicazione. Potrebbe essere una variazione societaria anche in Libia, però... Cinese anche a Terni, magari. Cinese anche a Terni, va bene, ok. Incassiamo anche questa notizia. I cinesi stanno arrivando anche. Dopo hanno colonizzato dapprima Pavia, poi il Milan, e adesso arrivano a Terni. Solo all'armi scalo, manca un quarto d'ora. Bravo. Magari possono essere interessati anche all'acciaieria, sia mai che risolvono anche la crisi dell'acciaio. Quello sarebbe ben più seria. Come no. Grazie, Luca. A voi, ciao, buon pomeriggio. Ciao. Traffico. Bisogna ripartire, insomma, il Milan ha avuto tanto in questi anni, sono un paio d'anni complicati, però io penso che il Milan ritornerà a fare quello che ha sempre fatto. Il Milan è sempre il Milan. Tutti convocati. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Convocati. C'è calcio d'angolo per il Napoli, dalla destra della porta di Marchegiani, parte Carbone, il traversone sotto porta, il palla che termina in rete! Maremma d'autore, tantan mi verrebbe da dire per questo, per questa, questo chi l'ha visto. Interpol sulle tracce di Freddy Rincon, mandato d'arresto per legami con il narcotraffico. L'ex centrocampista, la più attaccante in realtà colombiano, sospettato di riciclaggio di denaro sporco nell'ambito di un'indagine aperta dalle autorità panamesi nel 2007. Storia vecchia, sono tranquillissimo, ha detto lui dal Brasile, dove serenamente lavora come commentatore, collega di Pardo dunque per ESPN. Mandato di cattura internazionale alle indagini di tre procure, Panama, Colombia e Brasile. Capito, Pier? Capito, il capito. Signor Rincon. Le strane vicende umane, no? Perché poi, insomma, alla fine succede. Poi in Brasile fa il commentatore per ESPN, una storia vecchia, 2007, ormai sono tranquillo. Che abbia anche lui annusato l'area della prescrizione, questo non lo so. Ma no, tra l'altro, si diceva prima di Spalletti, risulta che sia Miami. Quindi non dalle parti né di Milano né di Pechino, Shanghai o in quell'area. Ieri, volendo, si è giocato anche a pallone, giornata che, caro mio, non ha detto moltissimo, al di là della retrocessione del Parma. Mette un po' di pressione al Napoli stasera. Sì, perché, un po' di pressione perché Roma e Lazio ne hanno fatti 7, sì. Sì, perché comunque insomma l'Empoli se decide di giocarsi la partita è una squadra in questo momento che sta bene, che sta in salute, che qualche difficoltà la può creare. Detto questo, il Napoli ovviamente è superiore. Lazio e Roma hanno vinto molto bene, poi insomma Parma e Sassuolo, e sulla difficoltà di questi ostacoli si può ovviamente discutere, però sai, questo è un campionato nel quale qualcosa di fortunatamente posso chiederti un'impressione? Sì. Ma così, sulla pelle. Ma secondo te la Sampdoria l'ha un po' data su oppure no? Pareggio, non sta viaggiando su, forte. Vuol dire tu sei un inglese, quindi dici to give up, cioè ha mollato. Sì. Ma non lo so, a me sembra che la Sampdoria le occasioni le crei, poi non segna. Le due partite contro il Cesena 0-0 e ieri contro il Verona sono state partite con tante palle gol, quindi non direi di no, francamente no. Direi di no. Poi ieri 10 contro 11 è diventato abbastanza complicato il discorso. La Fiorentina veramente deve mangiarsi tutto, i gomiti. Beh, chiaro, perché, chiaro. Perché insomma, se pensiamo che ha fatto zero punti fra Verona e Cagliari, adesso poteva essere comodamente seduta con la certezza dell'Europa League del prossimo anno. Ha un calendario che sulla carta è ancora abbastanza facile, però è tutto da vedere. Sì, beh, Torino recrimina tantissimo, perché quel gol di Maxi Lopez poteva diventare veramente decisivo, pesantissimo, e mi sembra insomma quello che il campionato non ci regala dal punto di vista delle emozioni per quanto riguarda scudetto e retrocessioni, che sono discorsi ormai chiusi, però ce lo regala a livello di lotta per l'Europa. Sì, di piazzamenti sì, che sì. contano. Sono curioso di capire, ma avremo già domenica contro Genoa la risposta, se la vittoria della Roma di ieri è qualcosa di nuovo, perché insomma è la prima volta che la Roma vince in questo girone di ritorno senza problemi, senza patemi, facendo tre gol addirittura. È vero. Una volta soltanto due. Ci può stare la difficoltà del Sassuolo, che oltretutto ha tenuto Zazza in panchina all'inizio, però insomma Roma-Genoa secondo me diventa un bel test. Andiamo con gli ascoltatori per chiudere questa prima ora. Luca, provincia di Como, buongiorno, dica. Buongiorno, grazie per la convocazione. Io volevo porre, innanzitutto sono romanista e sono contento della buona prestazione dei giallorossi ieri sera. Ho visto un'altra punizione inesistente in Juventus-Fiorentina, gol di Llorente. Ora, sommando tutti questi episodi che quasi settimanalmente si ripresentano sempre a favore di una parte, volevo sapere cosa ne pensavate voi, ecco tutto qua, senza fare il piangina come si dice da queste parti. Sì, che neanche se la Juventus dessero tre rigori a partita la Roma avrebbe tenuto il passo, cioè non è quello il problema. Se vogliamo essere chiari, sembra veramente un campionato falsato, in nulla mi sembra un campionato falsato. Poi io sono poco attento ai discorsi arbitrali, quindi poi probabilmente ci saranno delle squadre, si parlava ieri dell'Udinese per esempio, che hanno meno avuto, però spesso si è lamentato Pozzo, però insomma a me sembra un campionato nel suo senso complessivo nel quale non è che gli errori si compensano, però insomma non ho visto grandissimi segnali. Juve-Roma è stata una partita che ha sparigliato all'inizio, poi però la Roma ha avuto in altre circostanze sicuramente delle situazioni arbitrali, sì, però, non favorevoli. Nemmeno Romolo e Remo darebbero la colpa agli arbitri se la Roma non vince lo scudetto. Questo a prescindere, adesso, no? Stavo facendo un po' di excursus sulla stagione. E, per cui, insomma, francamente, la superiorità della Juve mi sembra evidentissima. E lì, insomma, forse sì, il Torino ieri chiaramente quell'episodio lì può pesare proprio perché arriva in un momento particolare, ma insomma ha ancora delle possibilità. Tano Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Avevo un paio di considerazioni. La prima era sul fatto che Pierluigi diceva che era meglio forse mettere Brocchi perché sta andando bene con la primavera. Ma Pippo ha fatto anche meglio con la primavera, pertanto non è un paragone e non è una considerazione da tenere. La seconda considerazione è che il fatto che si disputa Galliani con qualche errore, per l'amor di Dio, l'ha fatto anche lui, però Galliani è uno di quelli che sì, riesce, è un grande dirigente, io lo penso anch'io. Esatto, che riesce a tenere le file e poi sì, però non è questo il punto. Secondo me dovesse arrivare una nuova proprietà, sarebbe del tutto fisiologico che la nuova proprietà proponga i suoi uomini. Poi non so come andrà a finire la storia con Galliani. Quanto al primo punto, risponde Pardo, visto che l'ha citato. No, ma io discuto un principio, cioè discuto l'idea che siccome adesso il Milan tanto non può andare in Europa League, salvo e salvo, allora va bene. Proprio l'acquisto, se verrà confermato, milionario, ultramilionario del Milan, dimostra poi che le società di calcio hanno un'immagine, hanno un famoso brand, hanno quindi la necessità ogni giorno, ogni volta che scendono in campo, di onorare la maglia, se vogliamo vederla dal punto di vista più sentimentale, o difendere la propria immagine, se lo vogliamo vedere da un punto di vista più commerciale. Ma il concetto è lo stesso, per cui mancano 5 giornate, certamente. Se anche il Milan fa 15 punti non può andare in Europa League, secondo me non ce la fa. Detto questo, arriva un momento in cui lo scempio, uno decide che prova a inventarsi qualcosa, poi non sarà neanche colpa di Inzaghi. Cioè io non ci avrei trovato, visto che ormai sembrerebbe confermato Inzaghi per la terza volta, scampa all'esonero durante la stagione, così come non dico bisogna cacciare Inzaghi assolutamente perché è decisivo, dico però anche che se fosse arrivata questa decisione, forse se fosse arrivata 2 mesi fa, Milan adesso avrebbe più punti, se vogliamo rovesciare il concetto. Sì, no? 2 mesi fa a un certo punto si parlava di Brocchi dopo Milan-Verona, forse adesso il Milan avrebbe qualche punto in più e sarebbe in corsa per l'Europa League. Sì. E quindi insomma... magari no, magari stava più indietro, non lo sappiamo, però io del contesto l'idea che non ti piace il fatto non che è precampionato, non sì. è fine stagione, è non ancora la stagione. Non ti piace partite. Il fatto che 5 partite si debba andare a motore spento in questo modo, vedendo cosa succede sul fronte societario senza muovere un dito davanti a una squadra che si è visto ieri è davvero improponibile, improponibile anche dal punto di vista della dignità, mi sembra un parolone, però non si gioca e non si può andare in campo in un momento così, in questa maniera. Ciao Pier, grazie. Ciao. Augusto Alterne, ce la faccio? Sì, Augusto? Sì, eccomi. Dica. Allora, io sono, come dice, per usare un termine alla Cruciani, un milanista incazzato. Sì? Ma ormai da un bel po' di tempo. Poi per il motivo che il brand, secondo me, è già bello che è decaduto in Italia, forse in Asia ancora piace, ma in Italia e in Europa è diventato qualcosa di vergognoso, anche perché se a distanza di anni continuiamo a cambiare allenatori cercando una scusa e non mettendosi in testa che sono le teste che non vanno, comprese quelle dei giocatori, continuiamo a girare intorno al problema e mai ad affrontarlo. Berlusconi lo affronta in un altro modo. Sì, però Augusto, le ricordo che comunque il Milan ha vissuto analoghi periodi e poi ne è uscito tornando a vincere scudetti e Coppa dei Campioni, perché succede, non ha vinto l'ultimo scudetto 2 secoli fa, ma 3 stagioni fa, insomma, quando c'erano ancora giocatori in grado di vincere lo scudetto, ha vissuto altre stagioni da declino del brand, come lei si ricorderà, ma poi il brand è ritornato in auge sul tetto d'Europa. Allora ci fermiamo per il GR, ma state con noi, subito dopo il GR dovrebbe esserci un super campione del moto mondiale, Andrea Dovizioso. Non si rendono conto che il tempo è finito, finisce qua primo tempo. Tutti convocati. Convocati. Dunque. Comunque, confermiamo quanto ho detto prima. Abbiamo detto prima, Inzaghi viene riconfermato di nuovo alla guida del Milan. Alle 5 c'è la conferenza stampa in cui dovrebbe essere annunciato il passaggio di proprietà del club. Però adesso vorrei ringraziare innanzitutto Ducati, lo staff della Ducati, i colleghi della Ducati, perché in linea con noi c'è Andrea Dovizioso, da Jerez. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. A parte che parlare con noi ti porta bene, quindi se, ti invitiamo tutte le settimane se del caso. Senti, questa stagione sembra davvero una cosa grande per la Ducati, ma anche e soprattutto per te. Sì, grande è il termine giusto, stiamo facendo veramente bene. L'inizio stagione è stato, secondo me, perfetto. Ma è logico che non ci si accontenta mai, vogliamo sempre di più. Adesso, dopo tre bei secondi posti, vogliamo puntare a qualcosa di più. Abbiamo un bel weekend a Jerez in una pista molto difficile, ma mi sento molto bene con la moto, quindi non vedo l'ora di incominciare questo weekend. Senti, ho parlato con molti, da Beltramo a Ungaro a Guido Meda, sono tutti d'accordo su un fatto: è il miglior Dovizioso di sempre. Lo dice anche Dovizioso oppure no? Ma è probabile, sì, ma questo arriva da un insieme di cose, come è normale che sia. Beh, sicuramente di base c'è la moto che è speciale, ma soprattutto per una persona come me, trovarmi in questa situazione in Ducati al centro del progetto e con una relazione ottima con tutte le persone, gli ingegneri, fa la differenza. Ho fatto un po' di esperienza in altre squadre, quindi mi sento pronto per sviluppare una moto e per capire tutti i dettagli di quello che serve per stare davanti. E questo ci ha portato ad essere così competitivi. Sì, alla faccia dello sviluppo, eh. Moto nuova, appena nata, pronti via, va come una iena. Alla faccia dello sviluppo. Esatto, cioè il vero lato positivo è che in pochissimo tempo siamo riusciti a fare una moto iper competitiva. In poco tempo gli ingegneri sono riusciti a portare in pista una moto completamente nuova, e dal primo test ad oggi, che è passato davvero poco tempo, abbiamo fatto 3 secondi posti. Con il livello che c'è adesso in MotoGP, secondo me è esagerato. Senza fare classifiche, quanto conta Dell'Igna? La linea è contato e conta tantissimo, ma ripeto, è sempre un insieme di cose. Quando vuoi competere a questo livello, al massimo livello delle moto, hai bisogno di tutto, e quindi voglio mettere tutti dentro a questi bei risultati che abbiamo fatto. Paolo scrive: Andrea va forte perché è ben allenato, chiedi se si diverte con la sua track. Vabbè, te la lascio. Ma io ho ancora una domanda per te. La lotteria è aperta e tu sei ufficialmente iscritto, mi pare. Assolutamente sì, ancora un po' presto, perché abbiamo bisogno di ancora di lavorare, perché la moto è ancora troppo prematura, nel senso che ancora abbiamo secondo me vari aspetti dove possiamo migliorare, però con il sé non si va da nessuna parte, dobbiamo provare le varie cose per capire se si può migliorare e quanto. Però già secondo me la base c'è, e quindi sta in noi a quanto bene lavoreremo. Però Marquez è attaccabile, insomma, le prime gare hanno detto questo. Come, scusa? Marquez è attaccabile, le prime gare hanno detto questo. Esatto, sempre bello vedere situazioni che ti sembrano impossibili da arrivare, invece tutto è possibile. Grazie Andrea, il Milan va ai cinesi, eh? Ho saputo. Fa piacere, no? Sei tra i milanisti un po' tristi per l'addio di Berlusconi, eccetera? Però è contro, come tutte le cose. È contro perché finisce un'era, e positivo forse perché si rincomincerà, forse, spero, al più presto a fare certi risultati. Sì. Grazie Andrea, in bocca al lupo. Un abbraccione. Grazie. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Ciao Dovi. Allora, prima di Antonio da Napoli, Lorenzo da Torino, e prima di fare un giro in montagna che oggi ne ho veramente voglia, 800240024 è il numero verde, vi invito. La top 3 dei gol più belli del mercoledì sera, poi se volete votate anche, questi. Qui dalle D'Alessandro, D'Alessandro, palla sul sinistro, D'Alessandro, ribatte Krejc, poi la rovesciata per lo splendido gol di Piniglia. È 2-2 la firma di Maurizio Piniglia. Marchisio in verticale, grande palla per Tevez che parte in campo aperto, posizione regolare, Tevez in area di rigore, parte il tiro, rete! Gran gol di Tevez, fa impazzire lo Juventus Stadium, un gol da campione. Florenzi riesce a rientrare facendo saltare il pallone, punta l'area di rigore, ne salta due, poi calcia! Florenzi! Un gol favoloso di Alessandro Florenzi che fa 2-0 al minuto 27. Allora, secondo me il gol più bello è stato quello di Piniglia, però due facce straniere, una italiana, io per puri motivi campanilistici voto per Florenzi. Ve lo dico, ve la butto giù così piatta piatta. Antonio Napoli, buongiorno. Buonasera. Dica. Volevo dire una cosa a proposito del Milan. Sì. Che secondo me il problema del Milan non è tanto l'allenatore, perché noi ne possiamo cambiare quanti ne vogliamo, ma secondo me è il feeling che c'è tra la squadra e i giocatori. Certo. E soprattutto anche per la gestione in questi due ultimi anni non è stata molto... diciamo promettente. Sì, io dico che l'allenatore c'entra parecchio, ma relativamente in una maniera non determinante. Credo che alle spalle di ogni grande club ci debba essere una grande società. In questo momento l'aspetto importante non è l'allenatore, certamente, anche se ha ragione Pardo quando dice che se ti chiami Milan e se hai quei colori e quel brand non puoi permettertela di buttare tutto in vacca, nemmeno per 5 giornate conclusive di un campionato che non ha più nulla da dirti. In questo momento sono altri i discorsi relativi al club, quindi c'è grande confusione, ormai la confusione, la nebbia sta per alzarsi su scenari nuovi. Credo che questo influirà anche sull'atteggiamento di quei pelandroni dei giocatori, che in molte occasioni poi possiamo dire che il Milan è scarso, possiamo dire che è una squadra assortita male, il che è vero, che non ha giocatori funzionali, che ci sono giocatori sbagliati al posto sbagliato, possiamo dire un sacco di cose, però credo che il cambio di proprietà che avverrà in questi giorni potrebbe avere un effetto anche su di loro. Lorenzo da Torino, buongiorno. Buongiorno, scusate la trasmissione, finalmente sono riuscito a prendere la linea. Scusate cosa? Scusate il disturbo. Ma che disturbo? No, era solo perché sono in macchina e ho sentito qualche minuto fa un signore che si lamentava dei favoritismi alla Juve. Sì. Io sono anch'io di questo avviso. È vero che voi dite che tutto si compensa, ma proprio perché la Juve è così forte, ed è forte, non merita, non si dovrebbero fare queste ingiustizie. Soprattutto non tanto nelle punizioni o come è successo ieri eccetera, ma anche negli atteggiamenti. Abbiamo visto delle proteste di Chiellini che altri giocatori di altre squadre hanno pagato con 3 giornate, 4 di squalifica. Allora tutto è ammesso. Addirittura un giorno in una partita Bonucci è sceso dalla panchina per contestare. Sì, lei fa riferimento al famoso comitato che molti dicono alla Juventus, cioè il comitato, ecco, che va a protestare con gli altri, ma come c'è anche in altre squadre, sono giocatori di maggior giornalisti, pelle. Non tutti, guardi, vi adagiate un po' anche voi su questo. Addirittura poi i commentatori tecnici di Mediaset Premium, in certi casi più che commentatori mi sembrano un po' ruffiani. Sì, ma guardi, no, però in tutta sincerità io non vedo dei disegni oscuri dietro a questo campionato, perché, cioè, siamo sinceri, la Juventus lo ha stradominato. Possiamo parlare di singoli episodi o guardare le cose dalla prospettiva del tifo, come è anche legittimo fare, però in tutta sincerità io non vedo grandi disegni, non vedo l'uomo nero dietro a questo campionato. Non so cosa farci, non sono juventino e come a Pardo le questioni arbitrali mi interessano il giusto. però non, sinceramente non mi sento di dire che, anzi non lo dico proprio, che la Juventus sta stradominando il campionato perché così vogliono gli arbitri o i poteri occulti. Che poi ci sia quel famoso fantasma che si chiama sudditanza psicologica, a quella io ci credo, ma non solo nei confronti della Juventus, nei confronti anche di tutte le altre squadre che contano il campionato, perché per gli arbitri è fondamentale, anche inconsciamente, se vogliono fare carriera devono arbitrare grandi squadre e grandi partite, questo molto, molto banalmente. Il che non vuol dire che l'aiutano scientemente, però una sorta di condizionamento anche inconscio io credo ci possa essere. Vogliamo sentire cosa ha detto Gasperini ieri sera dopo aver vinto in uno stadio che è stato suo ma dall'altra sponda, dall'altra parte, per pochissimo tempo, e ne ha avute alcune per i suoi ex datori di lavoro. Ma sai, io a Milano ho lavorato veramente molto poco, ho fatto 3 partite di campionato, la terza ero già fuori. Il mio rammarico è rimasto che non ho potuto semplicemente lavorare. E il mio rammarico di Milano è di essere stato giudicato frettolosamente come un incapace da gente che secondo me era incapace. Ho trovato molta incapacità a Milano. Milano, che è un po' l'avanguardia di tutto, e spo calcisticamente ho visto della roba. Io ho girato tutte le categorie, ma a Milano ho visto veramente roba scadente. E quindi la mia esperienza in Milano è andata così. E chi vuole capire, capisce. Non mi sembrano parole molto scure in questo caso. Mi ha raggiunto Gigi Donelli, che saluto subito. Ciao Carlo, buongiorno. Parlo con Marco da Pescara e poi, come annunciato prima agli ascoltatori, avremo una gran voglia di fare un giro, purtroppo solo virtuale, in montagna. Poi mi spieghi perché e come. Marco Pescara, buongiorno. Sì, buonasera gente, buonasera. Niente, io volevo solo segnalare che ieri è stata detta un'inesattezza. Adesso non so se vi siete corretti all'inizio della trasmissione, perché mi sono collegato da poco, in merito alla questione dei posti Champions. Diciamo, sul sito della UEFA è segnalato che la vincente dell'Europa League in pratica accede sì ai preliminari della Champions League dell'anno successivo, ma qualora la vincente della Champions League sì abbia già ottenuto attraverso il campionato la partecipazione ai gironi, accede direttamente alla fase a gironi della Champions League. Cioè, banalmente, se la Juventus vince la Champions League, il Napoli di turno che vince l'Europa League va direttamente nella fase a gironi, quindi è quello che abbiamo detto fin dall'inizio, non c'è stato bisogno di alcuna correzione. Poi è un meccanismo molto complesso, io suggerisco di vedere come va, vediamo come va e poi facciamo i conti, vediamo chi è in Champions League e in Europa League. Sarebbe ovviamente il massimo avere la Juventus campione, per il calcio italiano, avere la Juventus campione d'Europa e avere la terza classificata, cioè la vincitrice Europa League italiana, che va nella fase a gironi, festa grande per tutti, salvo... E magari c'è spazio a quel punto anche per noi, Carlo? Per l'Inter? Sì, tutti, ma poi io conosco diversi che dicono infatti: guarda, preferisco il preliminare piuttosto che la Juventus che alza la Coppa dei Campioni. Ma comunque questa è un'altra storia. Andiamo in montagna, va. Andiamo in montagna. Dove andiamo? Andiamo sul Monte Rosa, andiamo davvero in uno dei luoghi più belli del mondo, poi è qua a 2 passi, e andiamo a parlare di Mezzalama, cioè la grande classica, la Parigi-Roubaix dello sci alpinismo, dite come volete. Dovrebbe essere con noi Oscar Angeloni. Cioè, buongiorno. Ciao Oscar, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Sei già in montagna? Siamo qui nella valle di Gressoney e niente, il tempo è buono e aspettiamo sabato per l'inizio di questo 20° trofeo Mezzalama. Allora, 20° trofeo doveva essere 7 giorni fa, eravamo già tutti pronti, nel senso di chi andava a vederlo, perché è un grandissimo spettacolo dello sci alpinismo, il maltempo, magari io sarò a Expo, che è un'altra cosa fantastica, però è come dire, avrei voluto fare entrambe le cose. Ma Oscar Angeloni, lo presentiamo per gli addetti, gli appassionati, è ben noto, non foss'altro come direttore tecnico della Nazionale di Sci Alpinismo, ora si occupa della scuderia Dinafit, che sabato mattina gareggia. Allora, come raccontare il Mezzalama, Oscar? Ma Mezzalama è una gara storica, la gara più storica che c'è nel mondo dello sci alpinismo, 20ª edizione, a cadenza ogni 2 anni, e appunto quest'anno rispetto agli anni scorsi si parte da Gressoney attraverso tutto il gruppo del Rose e si arriva fino a Cervinia. La gara è un po' particolare perché vabbè, è nata nel 1933, e poi in ricordo appunto di Ottorino Mezzalama, un tenente dell'esercito che è morto sotto una slavina, e per ricordarlo appunto gli hanno dedicato questa gara. Una gara particolare perché si corre a squadre di 3 atleti legati, perché come di consuetudine in ghiacciaio ci si lega, anche le discese saranno questi atleti legati. E un'altra particolarità è che si toccano i 4200 metri del Castre e 4100 dell'Iscan. Ecco, quindi... tutto questo, Oscar, mi permetto, la partenza sui 1800, no? Gressoney Trinité, la prima salita per così dire, sono quindi 2400 metri di dislivello, naturalmente con le pelli in spinta. Sì, all'incirca sì, sono 1800, 4000 e qualcosa, insomma una grande salita, questo per dare anche l'idea un po' ai nostri ascoltatori che stiamo parlando di un livello molto alto, una volta arrivati lassù in cima sali scendi in alcuni dei passaggi veramente più belli del gruppo del Rosa, anche tecnici direi. Sì, perché si passa attraverso il canale dell'Aquila, poi si sale al naso dell'Iscam, è il naso dell'Iscam completamente ghiacciato ma... messo in sicurezza dalle guide alpine valdostane, quindi scenderanno in corda, attaccati ad una corda con appunto tutta l'attrezzatura necessaria. È stato necessario fare una traccia nel ghiaccio perché appunto è molto molto pericoloso, però come dicevo prima la sicurezza è garantita dalle guide alpine valdostane, dalla regione Valle d'Aosta, quindi tutto si svolgerà sicuramente nella maggior sicurezza. Ecco, un grande spettacolo, naturalmente c'è chi gareggia e addirittura chi gareggia per vincere, e poi ci sarà, come spesso accade in queste manifestazioni, una folla che, come nel ciclismo, insomma, si va a piazzare nei punti alti. Quanta gente è prevista? Quanti concorrenti e quanti appassionati? Sono 900, no Oscar? 900. Sì, sono 300 squadre da 3, quindi 900 atleti che si sfideranno lungo questo percorso. Diciamo che 20, 25, 30 squadre saranno lì davanti a battagliare, poi il resto è tutta gente appassionata che vorrà dire io ho fatto il Mezzalama, quindi diciamo che non c'è solo la categoria top ma anche chi lo fa per passione. Tanti insomma. Appassionati, poi c'è chi va a vedere, allora giustamente Carlo diceva come si fa ad andare lassù, beh intanto si prende una funivia, già te lo dico, sì, questa era la mia previsione se fossi stato lì. E speriamo che il tempo sia buono perché assolutamente. C'è qualche incertezza, no? Dice Oscar sul tempo. Sembra che diano una bella finestra di bel tempo, quindi tutto dovrebbe svolgersi nel migliore dei modi. Appunto c'è stato un rinvio perché non erano sicuri del bel tempo, quindi la massima sicurezza in queste gare. Quindi dicevamo, il pubblico può prendersi un bel tratto di funivia, tipo arrivare a Cima Indren, quindi già hai fatto un bel pezzo di strada che gli atleti fanno spingendo, e lì ti trovi davanti il ghiacciaio, il grande spettacolo e gli atleti che arrivano. Quanta gente arriva? Cosa pensi? Ma io, viste le precedenti edizioni, penso tanta gente, tanta appassionata di questo sport, approfittando anche del ponte del 1° maggio, sicuramente ci sarà un bel po' di pubblico. Ci si può anche, diciamo così, avvicinare gli atleti dalla parte di Cervini, andando su a Plateau Rosat, verso il Colle del Brighton, quindi anche lì con poco sforzo, diciamo, e utilizzando le seggiovie si riesce ad andare a vedere in quota questi atleti. E per i più pigri ci sono sempre le webcam e le dirette web, vi segnalo tra l'altro trofeomezzalama.it per chi volesse approfondire e, come dire, agganciare questa gara formidabile. Un'ultima domanda, il vincitore più o meno in che tempi siamo? Ma essendo un'edizione nuova che parte appunto da Gressoney e va a Cervinia, abbiamo stimato attorno alle 4 ore 40, 4 ore 50. Pazzesco, andate a vedervi il percorso e poi capirete perché dico pazzesco, perché davvero solo la prima salita richiede quel tempo delle persone anche mediamente allenate, perché è veramente lunga, ma loro sono dei fuoriclasse. Stiamo parlando di professionisti, quindi alla fine quei tempi ci stanno, mediamente 2 giorni per i turisti, ma... Ecco, 4 ore 40 per loro. Uno spettacolo, ve lo consiglio, andatelo a vedere anche sul sito del Sole 24 ore. Sky.com, abbiamo una gallery, insomma, c'è davvero delle immagini straordinarie. Grazie. Oscar, grazie mille. Grazie Oscar. Grazie a voi, grazie. Buona giornata, grazie. Buona giornata, Gigi, grazie anche a te, e ti saluto con questo messaggio. Oggi vi amo, parlate di mezza lama e sci alpinismo. Scrive un ascoltatore, domani non c'è Carlo, mai. Carlo, te lo dico sempre, in realtà sono in tanti, domani basta. Grazie. No, ma ti aspetto quando vuoi. Intanto devo dare una notizia, che questa è uscita ora. Ed è importante perché la curva Scirea della Juventus, la curva della Juventus, in seguito ai fatti del derby, è stata chiusa per 2 turni. Comunque, con ogni probabilità, la Juventus manca un punto per festeggiare lo scudetto. Secondo me Sopiglia senza tifosi, perché la trasferta è stata, per le stesse ragioni, vietata, chiusa, ai trasferta contro la Sampdoria, ai tifosi della Juventus. Ma non dovesse fare questo punto, la gara successiva è in casa con il Cagliari, e quindi la Juventus festeggerebbe in quell'occasione lo scudetto senza la curva Scirea. Così ha deciso il giudice sportivo. Bene ragazzi, ci sentiamo domani. Giorgio De Luca, nostro autore, Daniele Buonamici in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti. Arrivederci ragazzi, ciao.